Certo, e intanto volevo sottolineare l'importanza della forma dell'esagono. È l'unica figura che a incastro non lascia spazi. E quindi, pensateci un attimo, è una delle poche figure che ha più di quattro lati, che incastrandosi, mettendo insieme tanti esagoni, non trovate spazio, si complementa in continuazione. Beh, la natura è stupenda, le api insegnano, no? E detto le questo... api insegnano, esatto, sì. Mi sembra che il commento che hai fatto sia assolutamente pertinente e adeguatissimo. E per quanto riguarda la sede espositiva, allora ho voluto questa intervista perché devi sapere che io sin da piccolo mi soffermavo non davanti ai negozi di giocattoli o ad altri motivi oppure i parchi giochi così. Io da piccolo sognavo di avere un'edicola, perché così potevo leggere sempre gratuitamente, perché era difficile estorcere qualche spicciolo per i fumetti o cosiddetti, certo, giornali. Mi ricordo bene. Ho detto, ma io avrò un'edicola, così potrò leggere tutto quello che voglio. Veramente l'edicola è un bel sacrificio, è un impegno non indifferente, ed è una sede espositiva in questo caso. Ci puoi dire qualcosa di più a tale proposito? Assolutamente sì, ci tengo particolarmente, anche perché la scelta dell'edicola nasce dal fatto che comunque sia a me che alle attuali proprietarie piaceva molto unire il concetto di libro e immagine, ovvero Shapiro diceva: nessuna immagine potrà essere tradotta da mille parole, nessuna parola potrà essere tradotta da mille immagini. Quindi unire queste due forme di visione, comunque implicano attenzione, lentezza, per me era molto importante. Lo spazio, peraltro, avrà una zona che da sempre, da ora in poi, verrà dedicata alle esposizioni, ce ne sono già state alcune e ne seguiranno altre dopo di me, per cui questo ci è venuto anche un po' naturale. La cosa molto importante di questa edicola, che appunto in pretello, come dicevi te, si chiama Lino, perché l'ex proprietario è stato un po' una figura storica di questa strada e un punto di riferimento sia per gli abitanti che persone che venivano anche da fuori con la sua edicola, la sua ricerca di libri, eccetera. Quando questa persona è venuta a mancare, queste due ragazze, nello specifico 8 mesi fa, hanno preso un po' l'eredità di questa persona e la stanno portando avanti, secondo me, in maniera egregia. Quindi hanno mantenuto l'edicola naturalmente, hanno fatto sì che questo spazio, che prima era adibito a magazzino e non aveva una funzione reale, invece si riaprisse, dando la possibilità appunto ad artisti giovani e meno giovani di esporre. E oltretutto c'è una grossa ricerca anche per quanto riguarda i libri.